sennò mi stavo fermando a prenderla. Ciao! Eia, dai Cristian e Daniele, fatevi un buon rientro e a dopo ti concilia, ciao ciao! Bel mondo, buon proseguo e tutte le migliori, ciao ciao! Eia, ciao, ciao ciao! Ciao, ciao! Ciao Davide, anche a te, no? Sei Davide? Oh, il suo sosia! Ah, minchia! Dai, glielo lasciate apposta lì, dai, glielo lasciate apposta lì per te! Negativo, negativo, io anche con la carta così, non la butto per terra, però la metto sul caso, se la metto da qualche parte non so dove. Ah Davide, grazie, Milo, Milo, là ci sono i tuoi colleghi, più avanti poco a poco. Milo, Milo, sì, Milo, c'è lo scimbo. Eia, eia. Gigante vostro, dove ce l'avete? Già giù, Chi? Qua, arriva da questa galleria artificiale. Bella, prima che arriva. Ehi, già si zigo, dai. Ehi, Raimondo, c'hai a Ivo lì davanti, l'ho incrociato col pivo di Alghero. Ah, capi, era sul 5 lui, va? Ehi, era sul 5, dai. Stavo chiamando, non mi ricordo che era Sandro, ma cosa visto, me la rendi? Ah, capi. Dai. A dopo. A dopo domani. Ehi. Ciao Raimondo, ciao, dai, buon proseguo, buon rientro. Yeah, ciao a tutti, ciao. Che sta a barra per il maio?